Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Una comunità scossa, quella di Preone, dopo il rinvio a giudizio di sindaco e caposquadra per la morte di un volontario della Protezione Civile. Il ministro per gli affari europei Foti a Udine, sul tavolo l'idea di mettere i lavoratori al centro delle dinamiche aziendali. 36 aziende al Salone del Mobile di Milano contro i dazi, dice Di Snaidero, bene avere una base distributiva negli USA. Meteo in evoluzione, da domenica il tempo peggiorerà, lunedì arriva la pioggia, le previsioni dei meteorologi ARPA. Natisone per tutti, l'iniziativa di pulizia delle sponde del fiume torna domani, oggi giornata dedicata alle scuole primarie. Il Curling Club di Clout ha conquistato la promozione in Serie A, la prima in 40 anni di storia della società sportiva. 12:31, buongiorno da Andrei Marušić e Rita Micoli. All'indomani della decisione di processare sindaco e caposquadra come rappresentanti della Protezione Civile per la morte 2 anni fa di un volontario, a Preone si ragiona su rischi e conseguenze di quanto avvenuto. A disgrazia si aggiunge disgrazia. È scossa la comunità di Preone, 25 volontari su 250 abitanti, dopo il rinvio a giudizio del sindaco e del coordinatore di Protezione Civile per la morte del volontario Giuseppe De Paoli, detto Beppino, travolto da una pianta di faggio il 29 luglio 2023. I due non se la sentono di parlare. Esprime perplessità la vice sindaca, ex prima cittadina. Sono proprio loro, i sindaci, i primi ad arrivare sul posto quando succede qualcosa. Anna Lenisa, vice sindaco di Preone. Un sindaco innanzitutto viene, quando viene eletto, diventa automaticamente il capo della Protezione Civile del suo comune. Non è che possa sceglierlo o meno, lo è e basta. E per questo ruolo non viene formato da nessuno, cioè non ci sono dei corsi da seguire per sapere come organizzare, cosa fare. È successo l'incidente di Vaia, mi sarei potuta trovare anch'io allora come oggi si trova il sindaco in questa situazione. Sindaco e coordinatore sono accusati di omicidio colposo per non aver preso le misure appropriate affinché solo i lavoratori adeguatamente formati partecipassero al ripristino di una strada forestale. Beppino era un ex pompiere e Roberto Pace l'ha conosciuto appena entrato in Protezione Civile. Roberto Pace, volontario. Da Beppino ci ho imparato tanto, perché lui era il più esperto del gruppo e quindi era per me come un... cioè da chi imparare tanto. Dalla politica arrivano appelli alla modifica delle leggi, modifica che però già dopo questa tragedia ci fu, toccando il testo unico delle norme in materia di sicurezza sul lavoro nel dicembre 2023, ma non sufficiente. Per la giuslavorista dell'Università di Udine, Anna Zilli, al momento un volontario è sì parificato a un lavoratore con i relativi obblighi formativi di dispositivi di protezione, mentre i sindaci e i coordinatori non sono parificati a datori di lavoro. Proprio del livello di imputabilità si parlerà a processo. Intanto i volontari temono una crescente disaffezione. Ad Ovaro, prima del Covid, ce n'erano 42, oggi sono 25. Walter Carlevaris, coordinatore di Protezione Civile ad Ovaro. Bisogna cercare di tutelare noi, i sindaci, altrimenti ci viene molto difficile lavorare. Preone, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Superare la contrapposizione tra datori e lavoratori coinvolgendo le maestranze nei processi che regolano la vita dell'azienda, condividendone anche i risultati. Se ne è parlato a Udine. La parola chiave è coinvolgimento. I lavoratori potranno partecipare alle decisioni gestionali, economiche e finanziarie delle imprese. Avranno dei diritti sui profitti e sul capitale, oltre che la possibilità di far sentire la propria opinione sulle fasi organizzative e produttive. In più avranno accesso anche a stock option dell'impresa, cioè alle azioni. È quanto prevede la proposta di legge presentata dall'onorevole Rizzetto, presidente della Commissione Lavoro Pubblico e Privato della Camera dei Deputati, e di cui si è discusso a Udine alla presenza del ministro per gli affari europei Foti e dei rappresentanti delle categorie produttive, oltre che della CISL. Il testo, che è stato approvato alla Camera, manca ancora il via libera al Senato, parte proprio dalla proposta di legge di iniziativa popolare presentata dal sindacato. Come ricorda il ministro Foti, la legge richiama l'articolo 46 della Costituzione, un articolo che, dice, è stato dimenticato troppo a lungo e armonizza lavoro e produzione, superando la contrapposizione di classe tra datori e lavoratori. Dello stesso avviso anche l'onorevole Rizzetto, che sottolinea come la legge risponda alle sfide del presente, cioè è quella di attirare e trattenere i lavoratori favorendo il cosiddetto attaccamento alla maglia. Per Graziano Tilatti, presidente di Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia, la legge funziona sia per le grandi che per le piccole imprese e soprattutto garantisce ai lavoratori un maggior potere d'acquisto, mentre secondo il presidente di Confindustria Udine, Luigino Pozzo, la legge favorirà il dialogo tra due mentalità, quella del datore e quella del lavoratore, che sono state distanti per troppo tempo. Udine, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Anche il sistema legno arredo regionale guarda con timore alle barriere commerciali innalzate dagli Stati Uniti, ma da Milano, dal Salone di Milano, l'invito è a considerare anche nuovi mercati, oltre a quello nordamericano, che resta comunque di riferimento. Qualche defezione legata ai timori per la situazione internazionale, ma anche qualche ritorno e comunque niente panico. Così si sono presentate al Salone del Mobile di Milano 36 aziende del settore del legno arredo del Friuli Venezia Giulia. Quello che sta accadendo fa parte dei giochi del commercio internazionale e di geopolitica, commenta Eddie Snydero, presidente del cluster legno arredo. La speranza è che buonsenso e ragionevolezza prevalgano, ma comunque è il momento di non fermarsi e di investire per aprire nuovi mercati. Proprio l'anno scorso gli Stati Uniti sono stati per la prima volta il primo mercato di esportazione, ma è pur vero che l'Italia non rappresenta una quota particolarmente significativa per le importazioni americane, se non per i prodotti di alta gamma, mentre pesano molto di più paesi come Vietnam e Cina. Le aziende comunque si stanno attrezzando, innanzitutto, continua Snydero, cercando di avere una base distributiva negli Stati Uniti, certamente non la produzione. Questo potrebbe ridurre una parte dell'impatto. Si è comunque aperta una trattativa, il mondo è grande, anche se quello americano resta un mercato di riferimento che va curato. Il momento non è facile, conclude, ma bisogna essere resilienti. È il momento di dare una mano alle aziende, soprattutto a quelle più piccole, e il cluster può fare tanto, anche con l'aiuto della regione. Proprio la Regione ha messo recentemente in campo il contributo Export Legno Arredo 2025, che rappresenta l'avvio di un supporto specifico dedicato all'internazionalizzazione del settore legno, con un bando da 1.400.000 euro. Le aziende espositrici hanno ricevuto anche la visita della viceministra all'ambiente Vania Gava, che ha presenziato alla firma dell'accordo di programma fra il suo ministero, Federlegno e Consorzio Nazionale del Sistema Arredo, che dà il via a un periodo di test propedeutici a un futuro regime di responsabilità estesa del produttore per l'arredo. Lara Zanni, TGR Friuli Venezia Giulia. Le 12.37.50 secondi, uno sguardo al meteo, cielo sereno su tutta la regione, le temperature registrate alle 11, Trieste 14 gradi, Pordenone 15, Udine 16, Gorizia 17, Piancavallo 11 gradi e 5 decimi, Sappada 13 gradi e 5 decimi, Tarvisio 15, Forni di Sopra e Tolmezzo 15 gradi e mezzo. Sul Lussario 8 gradi e 5 decimi, sullo Zoncolano invece 9 gradi e 5 decimi. Grado 13, Lignano 16. E ora delle previsioni meteo per questo fine settimana in arrivo, ci dice Francesco Sioni dell'ARPA. Nella giornata di sabato le previsioni vedono ancora tempo stabile, cielo sostanzialmente variabile e dal tardo pomeriggio ci sarà un netto aumento della nuvolosità. Con l'arrivo di aria più mite in quota, lo zero termico salirà a 3.000 metri. Da domenica invece appunto affluiranno correnti decisamente più umide. Quindi da domenica e poi anche l'inizio della prossima settimana vedrà cielo da nuvoloso a coperto. Le piogge cominceranno da domenica pomeriggio deboli o moderate e poi saranno in progressivo rinforzo lunedì e martedì, essendo appunto in genere abbondanti ma anche intense sulla fascia prealpina. Sia da domenica in poi soffrirà vento da sud o di scirocco moderato o localmente sostenuto sulla costa. Sarà inaugurata lunedì prossimo la nuova comunità residenziale a Gemona del Friuli, una struttura pensata per accogliere fino a 6 persone in carico ai centri di salute mentale di Gemona e Tolmezzo. Il nuovo servizio attivo H24 è gestito dalla cooperativa sociale Itaca, sarà tassello fondamentale nella rete di interventi territoriali di ASO-FC, grazie anche all'impiego del budget di salute che definisce le risorse per migliorare la qualità di vita e l'inclusione sociale e alla personalizzazione dei percorsi terapeutici riabilitativi. La casa è articolata su 3 livelli e dispone di ampi spazi comuni, camere da letto, area relax e locali dedicati ad attività laboratoriali aperte al territorio. A Pordenone è entrata in vigore ieri la nuova ordinanza del sindaco per contrastare l'abuso di alcol e tutelare il decoro e la sicurezza urbana, ordinanza che viene rinnovata periodicamente, soprattutto in concomitanza con l'allungarsi delle giornate. L'ordinanza prevede il divieto sulle 24 ore di consumare bevande alcoliche di qualsiasi genere e in qualsiasi contenitore nelle aree pubbliche di tutto il territorio comunale, come strade, piazze, parchi e giardini pubblici. Dal divieto sono esclusi i dehors dei locali pubblici e le manifestazioni autorizzate. E ora la politica. Oggi è l'ultimo giorno di campagna elettorale per i 4 comuni che vanno al voto domenica e lunedì. Ieri due protagonisti della politica nazionale in campo per i rispettivi schieramenti, a Monfalcone e a Pordenone. Il capogruppo al Senato di Forza Italia, Maurizio Gasparri, e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. I temi nazionali si mescolano a quelli locali nelle visite di due protagonisti della politica italiana a Monfalcone e Pordenone. Il primo ad arrivare è Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato. Nell'incontro al gazebo, Gasparri rivendica agli azzurri le doti di concretezza, equilibrio e realismo. Difende i provvedimenti del governo su sicurezza e legalità. In tema di spesa militare spiega che l'Europa deve essere in grado di difendersi, ma il suo discorso parte dai dazi di Trump, destinati, ti spiega, a creare un danno irreversibile. Le borse erano crollate, i risparmiatori erano allarmati, appena ha sospeso questa scelta veramente assurda e sbagliata, le dinamiche economiche hanno avuto una reazione positiva. Io penso che non ci debba essere una sospensione, ma una abolizione di questa politica dissennata, che invece di portare First America, l'America al primo posto, rischiava di portarla all'ultimo posto. Temi nazionali con toni più accesi, dato il contesto, anche nel doppio comizio di Elly Schlein, dalla segretaria del PD, attacco a tutto campo alle politiche sul lavoro che, spiega, hanno aumentato precarizzazione e insicurezza, difesa della scuola e della sanità pubbliche, attacco a una destra che, a suo dire, taglia il sociale, nega i cambiamenti climatici, calpesta i diritti delle persone e, pur di non contraddire Trump, nega le esigenze delle nostre imprese. Noi abbiamo davanti una destra che sa soltanto abbassare la testa di fronte ai nuovi potenti come Trump, che puniscono i nostri lavoratori e le nostre imprese minacciando dazi, poi tornando indietro, poi rimettendoli avanti. Una destra che se la prende sempre con gli stranieri, ma non si capisce che cosa faccia per voi, per i cittadini e le cittadine che hanno bisogno di risposte. Andrea Bardanica, TGR Friuli Venezia Giulia. E oggi va in onda l'ultima delle tribune elettorali organizzate dalla RAI in vista del voto di Pordenone. Ospiti nei nostri studi la candidata e tre candidati alla carica di sindaco. Appuntamento alle 13.15 su Rai 3 con replica radiofonica alle 23.05 su Radio 1. E cambiamo argomento. In occasione della giornata del mare, la Guardia Costiera di Trieste ha anticipato alcuni contenuti dell'ordinanza Mare Sicuro 2025. Tutte le strutture turistiche dovranno dotarsi di organismi di salvamento, ovvero bagnini, un servizio che andrà garantito fino a quando queste attività rimarranno aperte. È questa la principale novità contenuta nell'Ordinanza Nazionale di Sicurezza Balneare 2025. A illustrarla il direttore marittimo del Friuli Venezia Giulia, Luciano Del Prete, in occasione delle cerimonie per la Giornata Nazionale del Mare alla sede della Lega Navale di Trieste. In attesa della diramazione dell'ordinanza regionale, che è in via di definizione, la Guardia Costiera regionale ha anticipato che gli altri elementi di novità riguarderanno alcuni affinamenti delle regole sui natanti che non rientrano nelle categorie del diporto, come kayak, SUP, pattini, eccetera. Le anticipazioni, come detto, sono arrivate durante la Giornata Nazionale del Mare, istituita 8 anni fa per porre l'attenzione sulla necessità di protezione per le acque e la biodiversità che le popola. Alla cerimonia, organizzata dalla Lega Navale, hanno partecipato anche gli studenti dell'Istituto Nautico di Trieste, a cui sono stati illustrati i principi della sicurezza in mare, prima di una dimostrazione pratica in acqua sul corretto impiego dei mezzi di segnalazione e salvataggio. Trieste, Daniele Letti, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il Comune di Cividale del Friuli organizza la 4ª edizione del Natisone per Tutti, un'iniziativa di sensibilizzazione ambientale e pulizia delle sponde del fiume Natisone. L'evento, coordinato dall'associazione Fare Verde FVG e supportato da numerosi enti locali, e prevede domani attività di manutenzione dalle 9 alle 12 con registrazione dei partecipanti dalle 9 alle 10 presso la loggia municipale. La giornata di oggi invece è dedicata alle scuole primarie che partecipano a un'attività didattica incentrata sull'educazione ambientale. L'iniziativa mira a sensibilizzare i cittadini, in particolare i giovani, sul rispetto dell'ambiente fluviale e sul suo ecosistema. Ce ne parla Francesco Greco dell'associazione Fare Verde FVG. Prendiamo il tratto principale, centrale della Natisone, e in questa quarta edizione l'obiettivo principale è sperare di non trovare gli stessi rifiuti dello scorso anno. Questa iniziativa è il Natisone per tutti, lanciato dall'amministrazione comunale di Cividale con i volontari di Fare Verde Friuli Venezia Giulia, dell'associazione pescatori, il contratto di fiume Natisone e quant'altri, merita appunto di sensibilizzare l'opinione pubblica sul fatto che questo fiume sia molto importante per la vita del territorio. Ma quali sono stati i rifiuti più comuni che sono stati ritrovati negli anni scorsi? Abbiamo trovato plastica, barattoli, bottiglie di vetro, materiale ferroso, alluminio, e chi più ne ha più ne metta, poi dipende molto dalle piene del fiume. Quindi un po' di tutto che sicuramente non è stato creato da madre natura, ma che dipendono dai cattivi comportamenti. Ci sono delle raccomandazioni speciali per chi sceglierà di far parte anche di questa nuova edizione? Beh, noi sicuramente nella giornata di oggi con i bambini delle scuole primarie spiegheremo l'importanza della vita anche nel fiume, quindi le specie ittiche presenti e le specie arboree. Noi abbiamo trovato anche negli anni presenze di piante non autoctone che stanno distruggendo gli alvei dei fiumi, quindi un'attenzione e una formazione importante per gli studenti. Invece nella giornata di domani, con tutti i cittadini e gli studenti che vorranno partecipare, nei tratti individuati dagli organizzatori si procederà alla pulizia delle aree e al termine ad una hit parade dei rifiuti maggiormente trovati. Uno spettacolo per sensibilizzare sulla raccolta dei rifiuti. Il giornalista Luca Pagliari incontra studenti e studentesse delle scuole di Sacile e di Brugnera per il progetto ideato dalla Società di Raccolta Rifiuti, Ambiente e Servizi. Si chiama Prove Libere per un mondo migliore, lo spettacolo educativo realizzato dal giornalista Luca Pagliari sul tema dello smaltimento dei rifiuti e della sostenibilità ambientale, proposto a ragazze e ragazzi delle scuole superiori nell'aula magna dell'Istituto Marchesini di Sacile, con in collegamento anche gli istituti Carniello e della Valentina. L'iniziativa è promossa dalla società Ambiente Servizi in collaborazione con il Comune di Sacile e il mondo della scuola. Il giornalista Luca Pagliari. La parola ambiente è molto liquida, non si capisce bene, quasi inafferrabile, sembra che uno non possa fare nulla e in realtà, per quanto possa sembrare banale, effettivamente i nostri comportamenti incidono tanto e non dobbiamo preoccuparci di ciò che accade nel mondo, ma di quello che accade a casa nostra, che non è egoismo, ma sono i piccoli dettagli, la cura di un territorio che poi fanno la differenza. E quindi, rimanendo distante dalla retorica, da tutte quelle cose che sono molto didascaliche e che riguardano, tra virgolette, i numeri più che la pancia, questo più che un incontro è un viaggio in cui andiamo a scoprire un po' quanto sia facile fare delle piccole cose importanti e quali sono, ahimè, i danni che fino adesso abbiamo prodotto. Sacile, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. E siamo allo sport, il calcio, stasera alle 20:45 l'anticipo di campionato tra Udinese e Milan. Maignan, di nuovo tu. Il portiere del Milan ritorna al Friuli dopo l'episodio degli insulti razzisti del gennaio dello scorso anno e le conseguenti polemiche. Fu accusata tutta la curva del tifo bianconero, ma alla fine furono rintracciati 5 autori grazie alle telecamere dello stadio, destinatari di altrettanti DASPO. I tifosi friulani si sentirono però tutti offesi dalle accuse di Maignan. Così stasera la curva invoca dissenso con correttezza, temendo brutte figure. L'Udinese in campo deve rialzarsi dai 3 KO di fila subiti nelle ultime gare per provare a far meglio dei 47 punti di 3 stagioni fa. Oggi sono 40. Il Milan invece, scivolato al 9° posto con un ritorno di semifinale di Coppa Italia ancora da giocare, non ha mai trovato se stesso in campionato e questa sera è obbligato a vincere per provare a non perdere l'ultimo treno che porta in Europa. Gli infortuni tolgono a Rugnaic il giocatore più importante, Toven, leader per carisma e talento. Fuori anche Davis, Zemmour e Sanchez, con l'Udinese Udinese che dovrebbe schierare Attà dietro a Luca. Il bomber, che dopo aver toccato quota 10 reti a Lecce, si è fermato. La sfida a distanza è con Abraham in gol nelle ultime due trasferte dei rossoneri. Assente nel Milan Santiago Jimenez. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. Trieste, città sportiva alla pallacanestro, nelle ultime partite ha portato a casa vittorie molto pesanti in vista della volata finale. In questo servizio, più che sull'aspetto prettamente sportivo, ci soffermiamo su quello umano e sociologico di una squadra importante per la città e che la città sta ricambiando con un tifo galvanizzante. Un Pallarubini sempre infuocato suggella un momento d'oro per la Pallacanestro Trieste, che consolida il sesto posto nella classifica della massima serie con vista sui play-off scudetto. Squadra solida, team che gioca in sintonia, divertendosi e dando spettacolo, impostazione di gioco costante. Non solo sport, non solo agonismo, spazio anche al sociale, aspetto molto importante per la società guidata dal general manager Michael Arcieri. Pallacanestro Trieste è sociale. Ci sono tante iniziative. È fondamentale con quello che vogliamo creare, non solo una squadra che gioca bene nel campo, ma è nostra responsabilità e anche privilegio usare quella palla, to share the game, diciamo sempre il nostro credo, per dire che se noi non entriamo nelle vite delle famiglie, delle scuole, ospedale, regione, per almeno migliorare un pochino le vite delle persone, perché alla fine to give is better than to receive, dare anche è molto meglio che ricevere molte volte. Tra i beniamini dei tifosi Michele Ruzier, 32 anni, triestino doc, che ha appena firmato un contratto pluriennale con la squadra, un trascinatore, punto di riferimento per i compagni, che a Trieste ha ritrovato la sua dimensione. È tutta un'altra cosa, ti dà veramente quella carica in più. E soprattutto mi dà voglia di dare veramente più del 100%. Sembrano parole scontate, ma poi domenica quando sono qua che faccio riscaldamento con tutti i cori dei nostri tifosi, veramente mi fa dare il 300% ogni domenica. Hai appena firmato un contratto pluriennale, il tuo immediato futuro è qui a Trieste. Sì, sono molto contento di averlo firmato, ringrazio ovviamente Mike e il presidente Matiasic per questa possibilità. Da quando sono tornato il mio desiderio era di finire la carriera qui e speriamo che si avveri, insomma. Elisabetta Zaccolo, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Curling Club di Clout ha conquistato la promozione in Serie A, la prima in 40 anni di storia della società sportiva. Un successo raggiunto dopo un fine settimana intenso di gare in casa contro Dolomiti, Cortina, Banca e Virtus Piemonte Ghiaccio, che si sono classificate terza e quarta, e Team Druk Stones sconfitto in finale dalla formazione clautana. È tutto per questa edizione meridiana del giornale radio regionale. In regia Pasquale Nicotra e Bruno Montevecchi. In redazione ha collaborato Samantha Gon. Le prossime appuntamenti con l'informazione della TGR del Friuli Venezia Giulia, il telegiornale alle 14 sul terzo canale televisivo, l'informazione radiofonica torna su queste frequenze alle 15 da Andrei Marusci, Cerita Micoli. Grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.